Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Il ministro Boccia attacca il passaporto sanitario della Sardegna, è incostituzionale, ma il presidente Solinas non arretra, dal governo solo prepotenza centralista. Recovery Fund, ogni paese dovrà presentare un piano di riforme e investimenti, così il vicepresidente della commissione Dombrovskis. Emergenza coronavirus ancora forte negli Stati Uniti con oltre 100.000 vittime, in Corea del Sud Seoul richiude dopo un nuovo picco di contagi. Stasera vertice del mondo del calcio, è attesa la data per la ripartenza del campionato, sarà 13 o 20 giugno. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, che facciamo iniziare dallo scontro tra il presidente della regione Sardegna Solinas e il ministro per gli affari regionali Boccia sulla questione del passaporto sanitario per entrare nell'isola questa estate. Questo nel contesto, siamo alla vigilia tra oggi e domani della comunicazione proprio in coordinamento tra il ministro Boccia, il ministro della Salute Speranza, il governo e le regioni, dei dati del contagio delle regioni per capire quali saranno le nuove limitazioni o le minori limitazioni alla possibilità di spostarsi tra una regione e l'altra. Sentiamo. Il certificato di negatività al Covid che la Sardegna vorrebbe chiedere ai turisti in arrivo sull'isola è contro la Costituzione. A precisarlo, dopo le polemiche che ieri hanno coinvolto anche il sindaco di Milano Sala, è il ministro per gli affari regionali Boccia, il quale sottolinea anche che sulla ripresa della mobilità non ci saranno distinzioni, le regole stabilite dal governo saranno uguali per tutte le regioni. Io invito tutti a rileggere l'articolo 120 della Costituzione. La regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose. A pochi giorni dal 3 giugno, da Boccia ci saremmo aspettati una proposta chiara sulle riaperture fra regioni, non una inutile litania neocentralista, replica piccato il governatore sardo Solinas. Anche quello della Sicilia, Musumeci, intanto si dice preoccupato per il rischio di arrivi di turisti positivi dalle regioni più colpite dall'epidemia e, scartata l'ipotesi di un passaporto sanitario, chiede al governo delle linee guida nazionali per l'adozione di protocolli sulla sicurezza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questa discussione tra il governo e la regione Sardegna è passata oggi anche dai microfoni di Radio 24. Sentiamo il presidente della Sardegna, Solinas, ad Uno Nessuno e 100 Milan, tornare sulla polemica con il sindaco di Milano, Beppe Sala. Qui non è in gioco il radical chicchismo da salotto per dimostrare chi è più o meno accogliente. Qui c'è un problema concreto di sicurezza sanitaria per tutti e di non discriminazione. Io ho detto con chiarezza che dal 3 di giugno la Sardegna vuole aprire le porte a tutti i turisti senza fare alcuna distinzione di provenienza. Il sindaco Sala si è inventato una querelle sul fatto che la Sardegna non voglia milanesi o lombardi, che non esiste. E noi abbiamo detto basta la certificazione di un test che ci dica della negatività, quindi non c'è bisogno di un tampone. E ora cambiamo pagina all'indomani della presentazione della proposta della Commissione Europea per il Recovery Plan. Ecco alcune specificazioni. Le fa il vicepresidente della Commissione, Dombrovskis, che dice che ci sarà, ogni paese dovrà presentare un piano di investimenti ma anche di riforme, parole poi specificate anche dal commissario italiano Paolo Gentiloni. Italia e Spagna fanno la parte del leone con la prima maggiore beneficiario del pacchetto Recovery Fund da 750 miliardi, ribattezzato Next Generation EU, proposto dalla Commissione Europea. Il pacchetto include il programma temporaneo React EU per potenziare la politica di coesione, 55 miliardi, la Recovery and Resilience Facility, 560 miliardi, il Fondo per la Transizione Giusta Rafforzato, 40 miliardi, e quello per lo sviluppo rurale. Ma nonostante ci siano fondi per tutti, sono contrastanti le reazioni nell'Europa 27, Conte, tra i primi a scrivere sui social il premier italiano Conte, che parla di cifre adeguate. Ottimo segnale da Bruxelles, va proprio nella direzione indicata dall'Italia. Su Twitter gli fa eco il premier spagnolo Pedro Sanchez, colpo di freni invece sull'intervento complessivo per l'annuncio dell'Olanda di trattative lunghe per l'approvazione. Il governo dell'Austria lo approva invece come punto di partenza, e anche il presidente francese Emmanuel Macron, che auspica rapidità e ricorda la spinta dell'accordo franco-tedesco. Tenta una mediazione la cancelliera Angela Merkel, che ammette: è chiaro che le trattative saranno difficili e non saranno chiuse già al prossimo Consiglio europeo di giugno, ma auspica che possa entrare in vigore entro il 1 gennaio 2021. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora sentiamo il commento di Carlo Cottarelli ai microfoni di 24 Mattino sul piano annunciato, come dicevamo poco fa, ieri, dalla Commissione europea. I soldi arriveranno nella proposta della Commissione dal prossimo anno. Ci sono, mi sembra, per quest'anno soltanto 11 miliardi e mezzo, ma non per l'Italia, 11 miliardi e mezzo per l'intera Unione Europea. Questi soldi saranno presi a prestito insieme in Europa e si deciderà insieme come utilizzarli. Credo che saranno importanti le raccomandazioni che sono state date all'Italia dalla Commissione europea come parte del semestre europeo. Cosa dicono queste raccomandazioni? Dicono di fare cose ragionevoli, usare questi soldi. L'Italia dovrebbe investire investimenti pubblici, mettere a posto la propria pubblica amministrazione, renderla più efficiente, quindi per esempio tutte le spese che riguardano la digitalizzazione della pubblica amministrazione. C'è un problema di giustizia che deve essere risolto. Così dunque il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani. Adesso invece siamo ai conti della disoccupazione in Italia. Aspettiamo i dati di fine maggio, ma si parla di qualcosa tra i 700.000 e un milione dei posti di lavoro che sarebbero a rischio. Così oggi il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, secondo il quale in Italia si pensa che il lavoro e l'innovazione si creino per decreto. L'economia è cosa diversa, ha detto ancora Bonomi, quindi o noi liberiamo risorse o non cresceremo come paese. Una stima del calo dell'occupazione arriva proprio oggi dall'Istat, 400.000 i posti di lavoro in meno a causa dell'emergenza Covid. La sospensione delle attività a marzo e aprile per l'emergenza sanitaria comporterà una riduzione dei consumi del 4%, con un impatto potenziale sull'occupazione in media d'anno di circa 380.000 occupati, pari al 2% del totale. Così in Commissione Lavoro al Senato Roberto Monducci dell'Istat, che oggi pubblica i primi dati post lockdown. A maggio l'indice di fiducia delle imprese si dimezza rispetto ai livelli pre-Covid, toccando minimi storici, e la fiducia dei consumatori scende al livello più basso da dicembre 2013. Aprile mostra inoltre la caduta più ampia dal 1993 dell'export verso i paesi extraeuropei, spiega l'Istituto di Statistica. Sempre a causa degli effetti della pandemia, l'americana Boeing taglierà 12.000 posti di lavoro, comprese 6.700 uscite non volontarie, mentre EasyJet si prepara a ridurre del 30% la forza lavoro, pari a circa 4.500 dipendenti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo all'estero. Il Congresso Nazionale del Popolo, il ramo legislativo del Parlamento cinese, ha dato il via libera all'adozione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, che ha già causato diverse proteste. Sentiamo. Con 2.878 voti a favore, uno contrario e sei astenuti, il Congresso Nazionale del Popolo, il ramo legislativo del Parlamento cinese, ha dato il via libera all'adozione della legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong. Approvata dunque la proposta che impone all'ex colonia britannica la controversa legge volta a punire attività secessioniste sovversive e che stigmatizza come criminale qualsiasi tentativo di mettere in discussione l'autorità cinese. In vista del voto, ad Hong Kong sono ricominciate le proteste. Oggi decine di manifestanti si sono radunati in un centro commerciale dove hanno urlato slogan contro la Cina. Nei punti strategici della città sono schierate dozzine di agenti in tenuta antisommossa a causa dei tentativi di incendio e di occupazione delle strade che ieri hanno portato all'arresto di oltre 600 persone. Per il segretario di Stato americano Mike Pompeo, in questo modo Hong Kong non è più autonoma dalla Cina, e crescono le preoccupazioni di chi teme che lo status speciale di Hong Kong sia destinato ad essere presto dismesso. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo all'estero perché l'epidemia di coronavirus continua a preoccupare in diversi paesi, anche dove sembrava già superata la fase critica, come in Corea del Sud. La nuova ondata di contagio ha fatto scattare l'allarme in Corea del Sud, dove sono state reintrodotte le misure di blocco nell'area metropolitana di Seul, in cui è concentrata metà della popolazione del paese. Il nuovo picco di infezioni era stato registrato ieri a causa di alcuni focolai legati a nightclub, a magazzini dell'e-commerce. Musei, parchi, gallerie d'arte saranno chiusi di nuovo da domani per 2 settimane. Le aziende reintrodurranno lo smart working. Ai residenti è stato anche consigliato di evitare incontri sociali o di andare luoghi affollati, tra cui ristoranti e bar, restrizioni che erano state revocate in tutto il paese il 6 maggio dopo che l'epidemia sembrava essere stata messa sotto controllo. Nuovi allentamenti invece dalla Cina, che si avvia a lanciare un green channel, una corsia preferenziale per i voli charter da 8 paesi, tra cui l'Italia. Un primo passo per sbloccare i collegamenti internazionali dopo la stretta decisa a marzo per contenere la pandemia e i contagi di ritorno. E intanto il premier cinese assicura che il suo paese continuerà a cooperare con la comunità internazionale perché è convinto che il Covid-19 potrà essere sconfitto con lo sforzo congiunto e continuerà ad adottare un approccio scientifico aperto e trasparente. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anniversario oggi della strage di Piazza della Loggia, il 28 maggio 1974. Per l'occasione, le parole di Sergio Mattarella: la ricorrenza della strage neofascista viene celebrata quest'anno dalla città di Brescia, incamminata sulla ripresa civile dopo l'emergenza causata dal Covid-19. Brescia ha risposto ora come 46 anni fa, ha detto Mattarella, con coraggio, dignità e solidarietà di cui la sua comunità è capace. E 40 anni fa, sempre oggi, invece, veniva ucciso il giornalista Walter Tobagi dalle Brigate Rosse. Lo ricorderemo nella seconda parte di Effetto Giorno. Stasera invece potrebbe essere la volta buona, nuovo vertice, parliamo della data fatidica per la ripresa del campionato di calcio di Serie A. Carlo Genta, allora che si dice? Carlo. Beh, si dice che siamo in attesa delle 18.30 quando inizierà il vertice decisivo tra Spadafora, Ministro dello Sport, Federcalcio, Lega e tutte le componenti del mondo del calcio per decidere, per calendarizzare con certezza la ripartenza. A meno di stamattina, il comitato tecnico-scientifico ha esaminato i dossier relativi alla situazione del calcio. C'era l'allarme di un presunto caso di positività al Bologna di un componente dello staff tecnico, ma è stato escluso dagli ulteriori controlli proprio in mattinata. Insomma, tutto si apparecchia per una ripresa che dovrebbe essere il 13 oppure il 20, c'è l'ipotesi di cominciare il 13 con le gare di recupero che non si sono disputate a marzo, le partite non disputate a marzo, quindi quelle arretrate sostanzialmente, per poi andare a pieno regime dal 20. C'è anche l'ipotesi di una Coppa Italia, delle 2 partite semifinali di ritorno di Coppa Italia da disputare il 13 e poi a seguire con il resto del calendario dal weekend successivo. Tutte incertezze che rimarranno fino alla serata di oggi, poi avremo molte certezze in più. Qualche schiarita, grazie Carlo. E quindi, insomma, gli appassionati di calcio, gli appassionati sportivi potranno vivere questa vigilia dalle 14 con il solito appuntamento, tutti convocati. È tutto per questa prima parte di Effetto Giorno, 13:13, facciamo una piccola pausa, vi aspettiamo tra poco, ripartiremo dalla crisi di liquidità delle città italiane, l'appello del sindaco di Firenze, Nardella, sentiremo quale idee per superare questa fase, poi andremo in Germania per vedere come in quel paese si sta riuscendo a rispettare il calendario delle riaperture delle scuole. Argomento, come abbiamo detto più volte, abbastanza doloroso per noi in Italia, dove abbiamo riaperto tutto tranne che proprio le scuole. Poi ve lo anticipo, alle 13:30 con il professor Lopalco faremo il punto sull'andamento del virus. Si è indebolito, come sostiene il professor Caruso, non si è indebolito, come sostengono altri virologi. Insomma, vedremo, anche perché in queste stesse ore il meccanismo messo a punto dal governo, dal ministro della Salute Speranza, al comitato tecnico scientifico per valutare quali regioni potranno riaprire la circolazione dei cittadini tra una regione e l'altra. Dunque sono ore di attesa anche da questo punto di vista. 349-238-6666. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Il ministro Boccia attacca il passaporto sanitario della Sardegna. È incostituzionale, ma Solinas non arretra e accusa il governo di centralismo. Recovery Fund è un piano di investimenti e riforme, spiega il vicepresidente della Commissione Dombrovskis. Città in crisi di liquidità, il sindaco Firenze Nardella è come dopo l'alluvione, andrò a chiedere aiuto anche in Cina, ne parliamo tra poco. Anniversario della strage di Piazza della Loggia, Mattarella oggi come allora Brescia ha reagito, 40 anni esatti anche dalla morte di Walter Tobagi. Calcio, stasera nuovo vertice per la data della ripartenza, sarà il 13 o il 20 giugno. ...13:16, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, e come annunciato dai titoli di oggi ci occupiamo del questione delle città, di un nuovo appello, di un nuovo invito, di un nuovo anche grido di dolore che arriva dai sindaci delle città in crisi di liquidità. E con noi il sindaco di Firenze Dario Nardella, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a lei. Allora, di questa questione si è già parlato, casse che si stanno svuotando per mancanza di introiti, tributi locali legati alle attività commerciali e turistiche, lo dico per ricordarlo, per come ricordarci per come funziona anche dal punto di vista del bilancio un comune. Ci sono nuove esigenze da fronteggiare adesso, non dimentichiamocelo, le spese per i controlli e la sanificazione dei luoghi pubblici, le spese per la mobilità che sta cambiando. Così Nardella, ho fatto io una parte del lavoro, diciamo, di quello che invece poi è la domanda che io le faccio. Ci dice in che situazione versano i bilanci della sua città, anche perché il governo ha stanziato una serie di risorse, lei fa parte tra l'altro di un partito che in questo momento è al governo nazionale. Allora il cittadino si chiede: ma tutti questi soldi stanziati sono arrivati anche ai comuni? Che cosa è successo? Beh, questo è un primo problema. Lei ha fatto un'ottima sintesi a proposito dei nostri comuni, delle città che devono continuare a spendere per sopravvivere, ma non hanno nessun tipo di introito. E le risorse introdotte nei vari atti, soprattutto il decreto rilancio, purtroppo ancora non sono arrivate. Questo è un primo problema, cioè il tempo che passa tra il varo della norma, della regola e il momento concreto in cui i soldi arrivano nelle casse dei comuni. Si deve assolutamente accorciare, sarà uno dei punti dei quali credo parleremo con il presidente Conte oggi pomeriggio alle 3 nell'incontro con i sindaci delle città metropolitane. Cioè, questa sarebbe tra l'altro la vera riforma a costo zero, perché non ci sarebbe bisogno di investire nuovi denari, nuovi soldi, come accade quando si fanno riforme fiscali, è giusto farle, o investimenti, è giusto farli. Qua la semplificazione avrebbe anche il merito che non costa, ma avrebbe dei grandi risultati invece in termini proprio di efficienza. E sì. Poi però, pensi sì. Che dagli anni 90 che si parla di semplificazione, la famosa legge 241 del 1990 nel titolo porta la parola semplificazione. Ecco. Io credo che dopo 30 anni la dobbiamo fare davvero. In questo momento c'è un senso di emergenza che dovrebbe spingere tutti a collaborare. Io parlo ai politici, le parti politiche, ma anche tutti i livelli istituzionali. Mi verrebbe da chiederle se in qualche modo lei ci crede che questa possa essere davvero la volta buona. È una domanda che le faccio come sindaco, ma insomma poi le chiedo però di rispondere sinceramente, perché al di là delle buone intenzioni tutti abbiamo bisogno anche, come dire, di iniezioni di concretezza. Ma ha ragione, come ricordava, questo è il governo del partito di cui faccio parte, ma proprio per questo io ho il dovere di dire le cose che non vanno e anche di offrire la mia collaborazione. Credo che siamo su un crinale, cioè se noi non raccogliamo quest'ultima occasione che ci viene data con una profonda azione di semplificazione, dando anche ai sindaci ruoli importanti, anche di commissari per la realizzazione di opere strategiche, se non facciamo tutto questo, io credo che condanneremo per i prossimi anni l'Italia ad essere paese di serie B in Europa e nel mondo. È davvero l'ultima chiamata, lo è per il mio governo, ma direi per tutta la classe dirigente. Senta Nardella, a proposito di semplificazione, oggi Ricordiamo, l'ha invocata anche lo stesso Conte, dicendo che è una precondizione per poter accedere ai fondi europei, per esempio, perché se non siamo in grado di spenderli, l'Europa stessa sarà sicuramente più avara, ma sarebbe un'occasione sprecata. Oggi si è parlato, per esempio, del modello Genova, col commissariamento. A proposito di commissariamento, oggi la ministra Azzolina fa una specie di proposta, di ipotesi, quella di fare di voi sindaci i commissari per quanto riguarda l'edilizia scolastica, cioè le opere per quanto riguarda la rimessa in sicurezza, anche magari in questo periodo, cercando di fare in fretta, visto che le scuole sono chiuse. Cosa ne pensa di questa proposta? I sindaci non si tirano indietro di fronte a assunzioni di responsabilità, non l'hanno mai fatto e non lo faranno soprattutto ora. Credo che la proposta debba essere allargata a tutte le opere strategiche, quindi non solo le scuole, ma anche infrastrutture che da anni restano bloccate da procedimenti, ricorsi, controricorsi, filtri, conferenze di servizio che non chiudono. Quindi bene come inizio, ma lo si allarghi. L'opportunità c'è, perché tra pochi giorni il governo varerà il decreto semplificazioni. Allora, questo decreto non può non mettere in cima all'agenda il ruolo dei sindaci per la semplificazione nella realizzazione delle opere pubbliche nelle nostre città. Senta, Lardella, un'ultima cosa. Lei ha detto che andrà fino in Cina a chiedere aiuto a chi vorrà, diciamo, fare dei finanziamenti per rifar risollevare e far ripartire la città di Firenze. La curiosità c'è. Perché proprio in Cina? Ha citato proprio la Cina per un motivo specifico? Beh sì, anzitutto perché la Cina è stata molto vicina alla città di Firenze. Molte città cinesi ci hanno aiutato con donazioni di mascherine, dispositivi sanitari e macchinari. E tra l'altro quest'anno celebriamo 50 anni di gemellaggio con Nanchino, che è una delle città storiche della Cina. È fuori di dubbio che la Cina nello scacchiere internazionale sta cercando di conquistare una nuova leadership nelle relazioni diplomatiche, e lo ha fatto in questo momento di crisi per l'Italia. Noi abbiamo e manterremo anche rapporti consolidati con gli Stati Uniti, e infatti io girerò il mondo per chiedere una mano a Firenze, che è davvero patrimonio dell'umanità, come fu nel 66, dopo quella terribile alluvione, quando da tutto il mondo arrivarono a Firenze aiuti sia materiali che economici. Va bene, grazie al sindaco di Firenze Dario Nardella, grazie per essere stato con noi. Molte grazie. E allora, fin qua il punto su questa questione, che non è da sottovalutare naturalmente. Tra poco, come anticipato, invece andremo in Germania, ve lo ricordo, per vedere come in quel paese si sta rispettando il calendario di riaperture scolastiche. Guardate, non è solo una polemica nei confronti del fatto che in Italia non si sta facendo, ma è anche proprio per capire veramente come si sono organizzati. Forse può darsi che arrivi qualche spunto interessante. Ci sono, per esempio, da mettere in piedi i centri estivi a partire dal 15 giugno, cosa che in quasi tutti i comuni è stata annunciato. Si cercherà di dare così una mano alle famiglie. Prima però di arrivare a questo, abbiamo anticipato con le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella l'anniversario della strage di Piazza della Loggia. Invece adesso vogliamo ricordare un altro anniversario tondo, i 40 anni dalla morte del giornalista Walter Tobagi. Accadeva in Italia proprio 40 anni fa, una fredda mattina di maggio, davanti all'abitazione di Walter Tobagi, inviato del Corriere, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti e appostato il comando della Brigata 28 Marzo. Marco Barbone, Enrico, il capo militare, Mario Marano, Fabio, armato con una 7.65, Francesco Giordano, Paolo, Ocina, carica la sua 357 Magnum, Daniele Laus, Gianni, infila nelle tasche una 38 Special, Paolo Morandini, Alberto, in bicicletta, disarmato, anche Manfredi De Stefano, nome di battaglia Hippo, non è armato. La pioggia batte fitta sugli ombrelli aperti. Alle 11.10 Walter Tobagi esce di casa, devia destra in via Salaino, cammina sul lato sinistro della strada. Barbone e Marano si trovano dietro a Tobagi, 4-5 metri di distanza. Il giornalista invece non si accorge di nulla, non si volta indietro, non nota niente di sospetto intorno, si trova all'altezza di una trattoria in quei pochi centimetri di marciapiede che separano le siepi da una macchina in sosta. Alcuni colpi di pistola calibro 7.65 fermano il cammino di Walter Tobagi, uno dei migliori giornalisti italiani, e poche ore dopo giunge la rivendicazione. Oggi, 40 anni dopo, di Walter Tobagi restano le sue parole, quelle che solo a leggerle pesano come macigni. Il coraggio delle sue idee, un messaggio da consegnare alle nuove generazioni e alla storia. Così Daniele Biacchessi, dunque. Adesso invece 13 e 25 minuti, torna a trovarci, ve l'abbiamo già anticipato, Cristina Cappellari, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno. Lei è un'insegnante italiana che vive in Germania dal 2009 e insegna inglese in una scuola tedesca dalla quarta elementare fino alla prima superiore, giusto? Esatto, una scuola Montessori. Una scuola Montessori. In Germania ci sono tante di queste scuole. Comunque è una scuola riconosciuta, fa parte del sistema appunto scolastico normale, nazionale, tedesco. L'altra volta ci eravamo sentiti ed eravamo, diciamo, alla vigilia delle riaperture, a ridosso proprio della grande riapertura. Ci aveva detto che il 27 aprile erano già riaperte per le classi dei ragazzi che hanno l'esame quest'anno. Il calendario, se ricordo bene, prevedeva la riapertura l'11 maggio, poi di quelli che hanno l'esame l'anno prossimo, il 18 maggio delle prime elementari e della prima media. Siete riusciti, parlo a livello generale, poi mi racconterà anche della sua scuola, a rispettare in Germania questo calendario? Sì, assolutamente, abbiamo riaperto e è andato tutto bene e adesso dalle vacanze, abbiamo le vacanze di Pentecoste che durano due settimane e poi rientreranno anche delle altre classi, quindi insomma la riapertura è andata molto bene. Ecco, ma dopo queste vacanze rientreranno le altre classi, a quel punto sarà completo già a quel punto il panorama della scuola, cioè saranno rientrate tutte le classi o mancherà ancora qualcuno? Allora, al completo non potremo essere contemporaneamente, però cercheremo di accogliere tutti gli alunni a gruppi, quindi se per esempio una classe ha 25 alunni non possiamo ospitarli tutti perché abbiamo il numero di 15, quindi divideremo in due gruppi e di settimana in settimana si danno il cambio. Ecco, prima di arrivare a questo proprio meccanismo, allora chiariamo di nuovo un attimo, sono state fatte delle scelte, quindi sono state fatti rientrare a scuola per ora gli alunni delle prime, per esempio di chi ha l'esame, quindi diciamo è stata fatta questa scelta per questi alunni, però è stato possibile rientrare a scuola tutti, cioè tutte le prime elementari sono rientrate, tutte le prime medie, giusto? Sì. È stato un modo anche per sfruttare meglio lo spazio delle scuole fino a questo momento, o sbaglio? Certo, sì, anche perché avendo molte aule vuote, poi comunque appunto gli spazi a disposizione erano molto più grandi rispetto a una situazione normale, quindi assolutamente sì. Ecco, ma come avete fronteggiato invece la questione dei docenti? Perché due sono i punti, gli spazi a disposizione per far rientrare in una maniera molto rarefatta i ragazzi a scuola, ma anche chi sta di fronte a loro, i docenti, che normalmente sono uno ogni tot, in questo caso le proporzioni dovevano scendere. Come avete affrontato questa questione? Allora, noi abbiamo, parlo della mia scuola, noi abbiamo dovuto rifare un piano orario, cioè quindi abbiamo dovuto cancellare quello che era previsto prima e il personale è stato diviso in base alle esigenze, anche appunto per far rispetto, per rispettare il numero dei 15 che classe che non doveva assolutamente essere superato. Quindi il numero magico è 15, non più di 15 per classe. Non più di 15, abbiamo dovuto rifare un piano nuovo da capo. E mi faccia un esempio, una classe di 25 bambini è stata divisa in due classi, una da 12 e una da 13, faccio una ipotesi, chi sono gli insegnanti che si occupano, mettiamo in una elementare dove in genere c'è un insegnante o due di riferimento, almeno in Italia, non so in Germania, e quindi chi è l'insegnante in più che si è dovuto, diciamo, appoggiare per creare lo sdoppiamento? Allora, di solito l'insegnante qui ce n'è uno solo che fa tutto, cioè fa tutte le materie, non è come da noi che c'è quello che fa italiano, storia, siamo un po' diverso, quindi da quel punto di vista è stato più facile. Poi sono entrati in gioco gli insegnanti specialisti, quindi quello di sport, quello di arte, quello di musica, si è un po' giocato anche sulle forze, sulle ore buche che sono rimasti perché alcune classi appunto non c'erano e quindi si è cercato di tamponare attraverso queste materie secondarie, diciamo. Questo è molto simile a quello che il Comitato Tecnico, il Comitato del Ministro Azzolina in Italia sta pensando di fare per settembre, cioè dividere la classe in due, metà fa la lezione di matematica, mettiamo, o con l'insegnante prevalente, l'altra metà fa o sport o fa musica o delle attività, esatto, integrative, sì. E questo è molto simile. Senta, più in generale voglio chiedere un'ultima cosa, insomma, perché in Italia c'è stata molta preoccupazione a parte degli insegnanti, anche il comitato tecnico scientifico, sul rischio di contagio, no? A scuola. Uh-huh. Io le voglio chiedere, in Germania questo, dove il virus c'è stato, quasi 200.000 casi, sì, sono state tante vittime, come si è superata questa paura, in che modo, con che tipo di comunicazione, di dati, di certezze? Intendo a scuola, cioè come ci siamo comportati? Intendo gli insegnanti come hanno reagito, diciamo, al fatto di ritornare a scuola, mettendosi in gioco, cosa che agli insegnanti italiani preoccupa molto e giustamente forse anche, no? Come preoccupa magari tutti, però di fatto in Italia è rimasta l'unica attività che non è ripartita come in precedenza. Ora mi tirerò le critiche degli insegnanti un'altra volta, ma la domanda rivolta a voi è: come è stata superata questa legittima paura di mettersi in classe con 15 bambini? Allora, noi abbiamo cercato di fare, c'è stato dato un protocollo di igiene da seguire, con delle regole che appunto dobbiamo rispettare, e soprattutto il contatto fra alunno e studente è stato molto limitato, cioè se prima magari si poteva andare al posto ad aiutare l'alunno, adesso non si fa più, cioè cerchiamo di preparare tutto sul tavolo in modo che l'alunno abbia tutto e non debba alzarsi più di un tot di volte per avere il contatto diretto con l'insegnante, quindi evitare anche lo scambio di fogli, lo scambio di penne, tutte queste cose qui. Poi abbiamo il disinfettante, in molti posti della scuola abbiamo messo dei dispenser con i disinfettanti, anche l'accesso al bagno viene limitato. È vero che è un compito degli insegnanti quello di igienizzare per esempio i banchi? Sì, lo facciamo noi alla fine della lezione. E dobbiamo disinfettare tutto, la mattina ci viene già preparato tutto l'occorrente e viene lavato anche a scuola dal personale di servizio e poi dobbiamo anche disinfettare i lavandini, ogni classe ha un lavandino con il disinfettante apposta anche per quello, quindi comunque ci hanno anche dato le mascherine, noi siamo stati dotati di tutto quello che ci serviva ovviamente la scuola è chiusa, cioè non si entra, e abbiamo anche delle entrate diverse per ogni classe, cioè, ci sono delle superiori che entrano da un lato e le elementari da un altro, e sempre con la distanza di un metro, certo, anche due tra un alunno e l'altro, quindi cioè noi non ci sentiamo minacciati, però ci sono stati alcuni insegnanti che essendo le categorie a rischio, loro sono stati, diciamo, liberati dall'obbligo, esentati dall'obbligo, esatto, e quindi loro fanno da casa, ci aiutano per quello che possono, sempre da casa. Grazie Cristina Cappellari, grazie. Vicepresidente, tra l'altro, lo ricordo, dell'Associazione Docenti Italiani in Germania. Quindi la risposta alla domanda come si è superata la paura legittima dei docenti di comunque di fatto chiudersi in una stanza con 13, 14, 15 alunni, così con l'organizzazione, con una serie di risposte concrete, anche esentando chi ha dei problemi di salute. Ci fermiamo, piccolo break, torniamo tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Il ministro Boccia attacca il passaporto sanitario della Sardegna, è incostituzionale. Il Recovery Fund è un piano di investimenti ma anche di riforme, spiega il vicepresidente della Commissione Dombrovskis. Emergenza coronavirus ancora forte negli Stati Uniti con oltre 100.000 vittime. In Corea del Sud Seoul richiude dopo un nuovo picco di contagi. Stasera vertice del mondo del calcio, attesa la data per la ripartenza, sarà il 13 o il 20 giugno. Allora, 13 e 38 minuti, velocemente con i vostri messaggi, cari ascoltatori, al 349-238-6666. Anch'io insegnante in Germania, gli insegnanti che fanno parte di gruppi a rischio lavorano solo da casa. In generale vedo apprezzamento da parte vostra per il grande livello di organizzazione che ci viene raccontato da una persona, un testimone, questa insegnante, ma non ho motivo di credere che stia, come dire, esaltando e lodando una realtà che poi è diversa. Ci saranno problemi anche in Germania, nelle scuole, non lo metto in dubbio, molti messaggi anche critici invece nei confronti dell'Italia. Se fosse un insegnante italiano abbasserei le orecchie, pieno di vergogna, dopo aver sentito cosa accade in Germania. Guardate che anche se ho insistito tantissimo sulla questione della scuola, alla fine sicuramente conterà, avrà avuto un peso anche le paure degli insegnanti, paure legittime, ma se a queste paure non vengono date le risposte razionali, organizzate, concrete, come è accaduto in questo paese, cosa che spetta alla politica di organizzare, il coraggio di prendere le scelte, là poi non si può dare la colpa agli insegnanti e basta. Si dà la colpa a un sistema di cui facciamo parte purtroppo tutti noi italiani. Se fossimo tedeschi, adesso le scuole sarebbero riaperte. Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Ora si apre la partita vera. Il piano della Commissione europea, annunciato da Ursula von der Leyen, mette in campo per l'Italia 172 miliardi, di cui 82 a fondo perduto. È la proposta della Commissione, ora tocca ai governi e si è già capito che la trattativa sarà complicata. La partita comincia il 18 e 19 giugno e probabilmente andrà avanti, perché serve l'unanimità. I paesi del nord hanno già espresso le consuete riserve, non sembra solo un fatto tattico. Dunque è fondamentale non dare argomenti ai nostri avversari in questa fase ed è decisivo mantenere una discussione pubblica su temi concreti e credibili. Quella montagna di denaro deve servire a modernizzare i paesi, come dice esplicitamente il progetto di Recovery Fund, con investimenti nel digitale e nella sostenibilità, e deve prevedere forme di finanziamento del bilancio europeo con web e carbon tax. Ora dunque serve un piano Italia, senza ridicoli distinguo di fazione o piccoli cabotaggi legati all'ossessione della visibilità dei vari alleati. E bisogna fare presto. Quei fondi devono arrivare prima possibile, anche perché quelli davvero anticipabili sono briciole, 11,5 miliardi e per tutti i 27 paesi. E va bene, adesso come annunciato facciamo il punto sull'andamento un po' del virus anche alla vigilia del piano che dovrebbe essere presentato dal governo e monitoraggio delle regioni per capire come ci si muoverà dal 3 giugno. Lo facciamo col professor Pierluigi Lopalco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per aver accettato di nuovo il nostro invito, professore ordinario di igiene all'Università di Pisa. Si è molto parlato, professore, intanto, dell'indebolimento presunto del virus. Ne è convinto Arnaldo Caruso, presidente della Società Italiana di Virologia, che annuncia anche una pubblicazione, una scoperta, una pubblicazione prossima, se abbiamo capito bene, invece, che ha detto che il coronavirus sta perdendo forza. Oggi invece il direttore dell'Humanitas Mantovani frena dicendo tutte le sequenze fino ad ora tracciate del virus, migliaia, non mostrano segni di cambiamento. Lei, diciamo, per quale delle due tesi propende e su cosa si baserebbe l'idea che il virus si sta indebolendo? Allora, parliamo ancora una volta di ipotesi, quindi diciamo quelle che sono state in qualche maniera esplicitate sono delle ipotesi, quelle che vi dirò io sono altre ipotesi, cioè finché noi non avremo tutta una serie di dati pubblicati, validati e ragionati che possano dare un bel corpo di evidenze, non possiamo dire chi ha ragione o cosa. Sicuramente c'è un'evidenza epidemiologica, cioè i ricoveri diminuiscono, non solo, ma le persone che si ricoverano sono generalmente presentano dei livelli di malattia più bassi, quindi una patologia meno seria. Questa è un'evidenza su cui non si discute. Ora, cosa sia alla base di questa evidenza è appunto oggetto di discussione, oggetto di diverse ipotesi che si stanno in qualche maniera discutendo al momento. Un'ipotesi è quella appunto del virus che è mutato e quindi ci sia un ceppo meno aggressivo. Giustamente, come diceva il professor Mantovani, però dall'analisi delle sequenze genetiche non sembra che questo virus circoli e si muti così velocemente per dare addirittura un'attenuazione della sua aggressività. Molto probabilmente quello che secondo me, ripeto, è una mia ipotesi, quello a cui stiamo assistendo è semplicemente il fatto che l'ondata epidemica si sta esaurendo e i positivi che noi troviamo in questo momento sono positivi per lo più asintomatici, che hanno quindi una carica virale più bassa e se io mi infetto con una carica virale più bassa è meno probabile che sviluppi una malattia severa, perché il virus non arriva direttamente nei polmoni, per esempio. Questo però ci farebbe pensare che gli asintomatici, anche se contagiosi, non sono in grado di, come dire, di portare una carica virale così pesante come invece i sintomatici? Ma questo è abbastanza logico, cioè nel senso che una persona che tossisce e certo. tira fuori una carica virale che è incomparabile con quella di una persona che in questo momento non solo non ha sintomi, ma porta anche la mascherina, ha un po' di distanziamento, quindi cioè la qualità dei contatti che poi genera un contagio in questa fase è completamente diversa da quella che noi avevamo all'inizio, quando c'era chiaramente, non c'era nessuna precauzione, non si sapeva che... Erano liberi tutti, nessuno sapeva niente, quindi è chiaro che il virus poteva espandersi in massima forza. Senta, professor Lopalco, l'altra questione è quella, cioè, tra oggi e domani dovrebbero esserci dati delle regioni definitivi in vista del 3 giugno. Lei ha capito se questo meccanismo in base ai 21 parametri, insomma lei fa parte anche consulente della regione Puglia, se questo meccanismo ha subito delle modifiche, perché è venuto fuori, per esempio lo ha tirato fuori la Presidente dell'Umbria, a Tesei, zero nuovi casi per diversi giorni di fila e l'Umbria risultava, stando alle indiscrezioni, con rischio moderato, cioè assimilata alla Lombardia. C'è stato un cambio in corsa di questo sistema? Lei si fida di questo sistema adesso? Guardi, bisogna guardare tutti i dati nel loro complesso, sono 21 indicatori, quindi sono tanti, i dati sono complessi, la qualità dei dati ovviamente non è omogenea, perché capisco anche che in una regione in cui ci possano essere molti più casi anche la qualità della raccolta del dato possa essere leggermente inferiore a quella, una regione appunto che va adesso a segnalare 3 o 4 casi al giorno e quindi dove sappiamo nome e cognome, dove abitano, che cosa fanno e come si sono presi la malattia, capisce bene che il quadro è completamente diverso. Quello che io ritengo è che una valutazione del rischio debba essere fatta anche in questa maniera, cioè andando a guardare proprio in maniera un po' più qualitativa, meno digitale, meno numerica, qualitativa qual è la diffusione della malattia, perché se anche magari io ho qualche caso in più, ma questi casi poi alla fine sono il risultato di uno screening che si fa a tappeto, io faccio un esempio. I casi che stiamo trovando noi in Puglia generalmente si tratta di screening che si fanno a tappeto, per esempio fra gli operatori sanitari, e ogni tanto viene fuori un positivo che si tratta di infezioni di molto tempo fa, magari queste sono persone appunto asintomatiche da tanto tempo, convalescenti, con cariche virali basse, e quindi non si può assimilare ad altre situazioni magari formalmente uguali ma che nella sostanza sono diverse. L'ultima cosa che le voglio chiedere in flash, però davvero in pochi secondi, lei cosa si aspetta? Ci saranno equiparazioni o ci saranno differenze tra le regioni per il 3 giugno? Sinceramente non lo so, anche perché capisce bene che questa valutazione, oltre ad essere puramente epidemiologica e sanitaria, è anche una valutazione politica. Va bene. Grazie professor Lopalco, grazie ancora per la consueta disponibilità e chiarezza. Ci fermiamo. Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra un attimo.